Radio 24 Reportage. Livorno, se la bandiera 5 Stelle sventola nell'ex Fortino Rosso, di Raffaella Calandra. La storia a volte si archivia anche con una battuta e un tatuaggio. Se la vedono al Nazareno mi radiano dal partito, scherza Iari De Filicaia, 38 anni e una falce e martello impressa nella carne. Lui passerà agli annali come il segretario della caduta di Livorno dopo 68 anni di amministrazione rossa. Fino alla fine è stato indeciso se partecipare o meno all'assemblea nazionale del PD, perché dimissionario, perché arrabbiato con Renzi che non li ha aiutati in campagna elettorale e perché gli scontri tra vecchi e nuovi del partito lui li ha già subiti sulla pelle. Chi è andato a comporre le liste alternative a noi erano dirigenti e amministratori di questa città 20 anni fa e 15 anni fa. La resa dei conti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo detto c'è una classe dirigente che va cambiata completamente, nessuno di loro deve avere più incarichi. Io credo che questo abbia fatto sì che qualcuno si sia auto-organizzato. Qui, nella città dove il Partito Comunista è nato nel gennaio del 1921, ora si è consumata una frattura interna ben più profonda di quella che si cerca di ricomporre a Roma. Alle primarie qui il voto è andato a Gianni Cuperlo e i sospetti ora toccano anche questo, ora che Filippo Nogarin, ingegnere 5 Stelle, ha espugnato la roccaforte dove per quasi 70 anni di seguito le amministrazioni sono state rosse e ora che le macerie di un intero mondo sembrano a tutti assai più evidenti. Il porto ridimensionato, le industrie sparite, la disoccupazione giovanile schizzata ai livelli più alti del centro-nord, ancor più che lo strappo di Guazzaloca a Bologna, la perdita di Livorno brucia nella sinistra italiana, anche per le strane alleanze che l'hanno provocata e che potrebbero essere replicate, paventano ora negli uffici del partito e nei circoli livornesi, dove sotto le gigantografie di Berlinguer si piange e si trema. Hanno desertato tutto, la storia di Livorno, ci ho pianto, la gioventù ci ha fregato. Una storia archiviata sull'onda di un voto di protesta, di risentimento, concordano tra i banchi del mercato cittadino o nei quartieri più periferici dove la sinistra è sempre stata una fede ancor prima che un partito. Ma con il declino della città vengono riviste anche certe condotte come l'accoglienza degli stranieri. Un terremoto assurdo, che non si poteva andare avanti così. I livornesi hanno preso coscienza, perché questo è stato un voto di protesta, non è che abbiamo cambiato mentalità o idea politica, no? Cioè, Livorno resta città di sinistra. Penso proprio di sì, sì, sì, nel cuore rimaniamo di sinistra. Tutti questi stranieri che ci sono, non funziona niente. Noi siamo molto penalizzati e mentre loro sono molto agevolati. Il parcheggio che abbiamo qui sui fossi, che ora sia in mano a una ditta di Pisa, è assurdo. Che abbiamo un porto che poteva funzionare a mille e sta morendo. È assurdo anche quello. E nel porto ci sono ditte che non lavorano perché qua a Livorno possono lavorare solo i portuali. C'è stata una forma di cupola della sinistra. Certo, certo. Diciamo che si comportava come una destra, ha ragione lei. Pure la nuova pavimentazione della Piazza Maggiore di Livorno viene contestata all'ultima amministrazione, considerata uno spreco in una città rimasta negli anni un fortino monocolore, non espugnato mai nel commercio anche da alcuna Esselunga, dove le industrie sono lentamente sparite, a cominciare da quella del settore automotive e dove il porto negli anni ha perso 5.000 dipendenti e ora anche sulle banchine confidano nel cambiamento, racconta Simone Angella della Filt CGL. Esattamente dal 2008 che moltissime aziende del porto e quindi molti lavoratori del porto sono dentro il regime di ammortizzatori sociali. Che cosa ne pensa dell'idea che il nuovo sindaco dice di in qualche modo strutturare e legare il porto di Livorno con l'aeroporto di Pisa? Questo può avere un valore rispetto alla parte turistica. Da chi era un po' una delle anime di questa città? Il porto in questo momento rispetto a Livorno che cos'è? Un appendice soltanto oppure è ancora uno dei motori della città? Fortunatamente, dico io, il porto è ancora uno dei motori della città, che nonostante la crisi, nonostante aver visto andare via o comunque non aver intercettato nuovi traffici, oggi ancora fra lavoratori diretti e lavoratori indiretti si parla di 7.500-8.000 lavoratori. Dai lavoratori del porto la richiesta di cambiamento è principalmente nelle proprie condizioni. Non possiamo più permetterci di vivere in una condizione in cui sappiamo che il nostro territorio può essere molto attrattivo dal punto di vista della logistica, ma di non sfruttarne le potenzialità. Questo è un problema grande. Più che la vittoria dei 5 Stelle, qui è andata in scena la sconfitta del Partito Democratico e per realizzarla è tornato a votare anche chi si asteneva da tanto. Hanno vinto i 5 Stelle, ma ci potevano essere anche le cicale, avrebbero vinto le cicale. Sindaco Filippo Nogarin, sindaco grillino appena insediato qui a Livorno, allora lei è d'accordo sul fatto che questo sia stato un voto soprattutto di protesta? Sì, credo che i cittadini livornesi conoscano molto bene il Partito Democratico, è una delle componenti che ha prodotto questo risultato. Molti cittadini livornesi parlano di un eccessivo buonismo che la sinistra ha avuto nella gestione delle questioni con l'immigrazione. I problemi vanno affrontati, far finta di niente è un modo per è un modo per non risolverli. Noi crediamo nell'integrazione. Lei ha fatto gran parte della sua campagna elettorale anche opponendosi alla costruzione di un ospedale nuovo e tra l'altro ha parlato anche delle questioni riguardanti il rigassificatore, questione più complicata e più vecchia nel tempo. Non teme che sulla vicenda del rigassificatore di avere un po' la stessa sorte che ha avuto Pizzarotti a proposito del termovalorizzatore di Parma? A parte il fatto che mi sembra che Pizzarotti alla fine abbia ragione sull'inceneritore di Parma, perché lo sta affamando tecnicamente, e noi abbiamo posto dei problemi di sicurezza. Molti dicono Livorno resta rossa anche se vota 5 Stelle. Se rossa vuol dire mettere l'individuo al centro, sì. Mi dispiacerebbe se Pizzarotti uscisse dal Movimento 5 Stelle? Sì, certo che mi dispiacerebbe, ma con questo non vuol dire aver preso una posizione, cioè io non conosco i fatti, quindi non so dare una risposta in merito a questo. Dimmi che il grillo si arrabbi. Io non temo nessuno. Pur di cambiare, qui nella città che fu culla della sinistra italiana, sembrano ora pronti pure ad accogliere l'invito del nuovo sindaco e archiviare un altro pezzo di storia, l'atavica rivalità coi pisani. Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, però no, anzi, se vengono a comprare ci fanno piacere. Dove c'è a pullman di pisani? Accogliamoli! È cambiato anche questo, è una fase nuova anche. È una fase nuova anche da questo Abbiamo punto di vista. Pisani! Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.